Amen. Puoi dare un'altra pacca magari alla persona che ancora non l'hai data. E buongiorno anche da parte mia. Sapete, stamattina io ero preoccupato perché in realtà in questi giorni ero preoccupato nella preparazione di questo messaggio perché siamo nel cuore dell'estate, la temperatura si fa sentire e allora mi chiedevo come posso snellire il messaggio, come posso riassumerlo, come posso renderlo schematico e attraente, perché il caldo un po' ci toglie il vigore, l'attenzione e non volevo svigorirvi con un messaggio lungo. Però Dio è più buono e non c'è stata una domenica così fresca nelle ultime settimane, quindi io stamattina posso predicare la mia predica in versione estesa, posso andare avanti per tutto il tempo che voglio, perché abbiamo ventilatori in più, la temperatura è giusta e siamo pronti per ascoltare la parola, vero Chiesa? Desideriamo la parola, vero Chiesa? Vogliamo tanta parola, vero Chiesa? Qualcuno in meno ha risposto a tanta parola. Stamattina però, prima di addentrarci nel messaggio, io voglio aprire una parentesi che riguarda una notizia importante. Fra 5 mesi, soli 5 mesi, noi avremo la conferenza, la nostra prima conferenza di Chiesa, l'8 e 9 dicembre, Ecclesia. E sapete, questa è una notizia importante che voglio darvi, perché a noi piace lavorare d'anticipo e ci piace programmare le cose e sapete, questa conferenza non è improvvisata, è ben pensata, stiamo pregando, pensate un po', ci stiamo già lavorando da un anno a questa parte, già da un anno stiamo lavorando a questa conferenza e abbiamo ancora 5 mesi. Eppure fino allo scorso mese, se non sbaglio era solo un mese fa, dopo tutte le richieste, le email, le telefonate, le ricerche varie di predicatori che potessero venire e contribuire e arricchire la conferenza dell'8 e 9 dicembre, non abbiamo avuto neanche una risposta. E quindi abbiamo cominciato a chiederci, ok, chi predicherà per queste 8 sessioni, per 2 giorni interi, e io ho cominciato a sudare, non che non sia pronto a predicare per 2 giorni interi, lo sapete che sono sempre pronto a predicare per 2 giorni interi, infatti questa predica di stamattina finirà fra 2 giorni interi, però no, il nostro desiderio era davvero che qualcuno venisse, uno speaker importante, e nelle ultime settimane, Chiesa, abbiamo cominciato ad avere risposte, addirittura, pensate un po', da pastori, cioè un pastore, il principale speaker di questa conferenza, che in una prima risposta, non direttamente lui, credo dalla segreteria del ministero che lui porta avanti, ci ha risposto non ho la possibilità di venire. E poi ha rimandato una mail per correggersi, perché evidentemente lo Spirito Santo l'ha svegliato di notte con le nostre preghiere e lui si è convinto e ha detto voglio venire, voglio essere in Italia, voglio fare la differenza. Il suo nome è Mike Pilavaci ed è un pastore meraviglioso che porta avanti un ministero giovanile in Inghilterra oramai da decenni, che è realmente una rivoluzione che invade a livello globale il mondo evangelico. In più è un pastore di una chiesa molto molto forte e non so se voi conoscete il worship leader Matt Redmond, per chi conosce questo worship leader, lui è il pastore, quindi siamo davvero privilegiati di avere lui e questo è solo uno dei diversi nomi di cui abbiamo già conferma, quindi siamo pronti? Quanto manca? 5 mesi. Hai però solo poche settimane ancora per iscriverti, perché nel momento in cui daremo notizia degli ospiti che avremo, le iscrizioni esploderanno e quindi io voglio avvisarti, c'è un limite, ok? C'è un limite di iscrizioni, quindi non puoi mancare tu che sei qui a pochi passi dallo Sheraton per godere di questa benedizione e lasciare il tuo posto a un polentone che viene dal nord e si iscrive prima di te, va bene? Quindi per tutti i polentoni che ci ascoltano su YouTube, noi vi amiamo, milanesi, noi vi vogliamo bene, venite alla conferenza, ma noi vi batteremo sul tempo perché saremo prima di tutti lì. Ora, stamattina io voglio predicare su quello che è diventato un mio nuovo verso preferito della Bibbia. si trova in 1 Corinzi al capitolo 16, versetto 13, e dice questo: vegliate, state fermi nella fede, vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi. L'ho detto bene? L'ho memorizzato bene? È diventato il mio verso preferito, un condensato di imperativi che l'Apostolo Paolo usa a fine della lettera, la prima lettera ai Corinti. E in questo condensato, in questo verso, se andiamo a vedere il contesto di questo verso, in realtà è tutto molto strano, perché il contesto di questo verso è completamente diverso. L'Apostolo Paolo sta dando delle indicazioni molto pratiche di ospiti che arriveranno in chiesa da loro, di lui che vorrà venire, raggiungerli, di Timoteo, di come accogliere determinate persone, di come dare rispetto a una famiglia. E in mezzo a tutte queste istruzioni e indicazioni ci mette queste parole. È un verso a sé stante, autonomo, indipendente dal contesto, però si trova alla fine della lettera. E come sapete, io amo le ultime raccomandazioni, perché io credo che chiunque di noi, quando scrive una lettera, si lascia il meglio alla fine. E quindi l'Apostolo Paolo, a conclusione della sua lettera, dice questo condensato di parole che credo siano anche una spinta ulteriore a tutte le istruzioni, indicazioni, insegnamenti che ha dato durante tutta la sua lettera, per tutta la stesura della lettera. E quindi lui dice: vegliate, non dormite, non sonnecchiate, non fatevi distrarre, vegliate, imperativo, state fermi nella fede, state fermi nella fede, non vi fate smuovere, non vi fate prendere da dubbi, non siate barcollanti nella vostra fede, state fermi nella fede, comportatevi virilmente. Bella questa cosa, un'altra traduzione dice comportatevi da uomini, ma l'Apostolo Paolo non si sta rivolgendo ai soli uomini, si sta rivolgendo all'intera Chiesa, a uomini, donne, giovani, anziani e a ogni credente, fino a noi oggi che leggiamo questa lettera, lui dice comportati da uomo, comportati virilmente. Questo termine ci parla di coraggio, ci parla di forza, ci parla di sicurezza, ci parla di determinazione, sii determinato. E poi conclude dicendo fortificatevi. E io voglio predicare su questa parola, fortificatevi. E letteralmente dal greco questa parola significa crescete nella vostra forza, aumentate il livello della vostra forza. Non è un bellissimo incoraggiamento? La Bibbia oggi ci dice la tua forza spirituale può crescere. La tua forza spirituale può aumentare, anzi c'è un imperativo che ti porta a credere in questa istruzione, vivere questa istruzione e a ereditare la promessa che c'è dietro queste istruzioni, perché dietro ogni istruzione che Dio ci dà c'è una promessa attraverso lo Spirito Santo che noi possiamo fare quello che Dio ci dice di fare. Quindi tu puoi crescere nella forza. Dillo alla persona che ti sta a fianco. Dagli una spallata e di tu puoi essere più forte. Fammi vedere il tuo muscolo. Puoi essere più forte, puoi essere più uomo, puoi comportarti più virilmente. Quando ho pensato a essere più forte, quando ho pensato all'essere uomo, ad avere sicurezza, avere grinta, avere forza, ho pensato a quello che poteva essere un oggetto che potesse illustrare al meglio questa forza. E non so quanti di voi sono andati mai in moto, posso vedere la tua mano, sei mai andato in moto? Al 90%, forse dovrei però riformulare la domanda. Quanti sono andati in moto e in quel tipo di moto che è di grossa cilindrata, ok? Le mani sono diminuite. Chi ha mai guidato una moto di grossa cilindrata? Posso vedere le vostre mani? e orgogliosa si alza la mia mano, perché io ne avevo una. La moto di grossa cilindrata non è il Vespino, lo scooter di turno. La moto di grossa cilindrata è quella moto che ha un motore talmente pesante che per spostarlo non basta una persona, richiede più persone. Quindi io voglio invitare i nostri tre ragazzi a entrare una moto di grossa cilindrata qui sul palco, perché vorrei che questa immagine e illustrazione rimanga vivida nelle nostre menti stamattina. State assistendo all'entrata in scena per la prima volta sul palco della Pieno Vangelo di una Ducati Monster 800. Vedete, cioè, ci vogliono tre persone per manovrarla e parcheggiarla e metterla in posizione. Questa Ducati Monster 800 è l'illustrazione perfetta di potenza. È stata progettata e ideata proprio per trasmettere la potenza di una moto. Non ha una carenatura, faremo una descrizione della moto stamattina, mi piace. Non ha una carenatura, è spoglia, si vede tutto di questa moto, il motore, perché chi l'ha progettata voleva che questa moto trasmettesse potenza già solo alla vista. Ma non è solo la vista che è bella di questa moto. Il bello di questa moto, e io ne possedevo uno, posso alzare di nuovo la mano, orgoglioso, è che tu senti la potenza letteralmente sotto di te. E se sei donna, so che ti sto perdendo nell'illustrazione di questo messaggio, però sii paziente con me, un giorno faremo anche l'illustrazione di un bimbi o di una, che ne so, di un beauty case. Però oggi parlo agli uomini, ok? Questa è una moto che ti dà sensazioni di potenza perché è stata progettata e poi dal proprietario in questione anche modificata per andare veloce. E sapete, Dio ci ha creati, ha creato ciascuno di noi per essere potenti e andare veloci. Tu sei come la mia moto, sei proprio come lei. Ok, non la canterò, però ecco, quello che Dio canterebbe a noi oggi da questo palco è che io ti ho progettato in una maniera stupenda e meravigliosa perché io voglio che tu corra. E lo sappiamo che ci sono versi che parlano esplicitamente del fatto che noi siamo destinati in questa vita a correre, a essere forti, a essere stabili, a essere incrollabili, a essere potenti e a dimostrare potenza anche agli altri. Noi siamo una Ducati Monster che è lì che illustra il mondo che una vita piena si può vivere non nelle nostre forze, non nella nostra potenza, ma nella potenza dello Spirito Santo in Cristo Gesù che vive in noi. Amen. Quindi oggi quello che io vorrei che tu comprendessi guardando a questa moto è che Dio ha messo in te tutto ciò che è necessario per essere stabile, forte, vigoroso e potente. La domanda è come esserlo pienamente. E quindi stamattina quello che noi andremo a chiederci è come possiamo crescere in potenza, come possiamo crescere in forza, come possiamo essere più vigorosi e più forti nella nostra vita. E io non a caso predico questo messaggio oggi che è 16 luglio nel pieno dell'estate, perché non so se avete notato, ma ci sono stagioni nella nostra vita dove la forza viene meno. E parlo di forza fisica, forse tu come me non soffri della pressione bassa, però io d'estate perdo le forze fisiche. E una delle prime cose che voglio dirti questa mattina è che per crescere nella forza devi riconoscere la stagione nella quale ti trovi. Se vuoi essere più vigoroso e forte nella tua vita, allora riconosci la stagione nella quale ti trovi. Perché la stagione, nel riconoscere la stagione nella quale ti trovi, tu puoi comprendere che tipo di forza hai bisogno per affrontare la stagione in questione. Ora, per imparare ad essere più forti, andiamo a prendere esempio dal più forte, dal potente, dal forte che è Cristo Gesù. E io voglio leggere con voi da Matteo 4:4 quell'episodio che conosciamo molto bene della tentazione di Gesù. E voglio dimostrarvi quanto è importante riconoscere la stagione nella quale ci troviamo già attraverso le prime parole che parlano di questa tentazione. In Matteo 4:4 leggiamo che Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine, ascoltatemi bene, leggete bene questa parte, alla fine ebbe fame, sfido chiunque, 40 giorni, 40 notti. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: se tu sei il figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Vedete, Gesù era in un momento della sua vita dove era debole fisicamente e aveva fame. Il tentatore viene e dove stuzzica, dove cerca di infiltrarsi, dove cerca di svigorire e far morire Cristo facendolo cadere nel peccato? Nel suo punto di debolezza. Il tentatore viene quando noi siamo in una stagione particolarmente debole, nella quale ci sentiamo debole. Se sei in una stagione di stress intenso, se sei in una stagione di problemi economici, se sei in una stagione dove i tuoi figli, magari piccoli, in casa, non ti fanno dormire la notte e tu accumuli stanchezza, accumuli stress, è lì che il tentatore viene per approfittarsi di quella debolezza fisica, approfittarsi di quella stagione per farti cadere e crollare e togliere da te il vigore al quale invece Dio ti chiama. Se tu riconosci però la stagione in cui ti trovi e riconosci lo stato in cui ti trovi, tu tieni testa al tentatore, come Gesù ha fatto. E Gesù ha tenuto testa al tentatore consapevole del fatto che lui avesse fame e che quelle pietre lui le poteva trasformare in pani, perché l'ha fatto, ha trasformato pani, ha trasformato addirittura l'acqua in vino. Gesù aveva autorità di poter fare quello, ma non ha dato ascolto al tentatore perché lui sapeva la stagione nella quale si trovava, conosceva la debolezza ed è rimasto concentrato su quella scelta di seguire lo Spirito Santo e non farsi derubare della forza che aveva acquisito in 40 giorni di digiuno alla presenza di Dio. Non farti derubare della forza che Dio ti dà. Non permettere alle stagioni nelle quali tu ti senti più debole di farti crollare, di farti cadere e poi anche magari di giustificarti perché eri stanco, perché eri stressato, perché le circostanze erano svantaggiose per te. Non permettere al tentatore di vincere. Quindi vuoi crescere nella forza? Punto uno, riconosci la tua stagione. Vuoi crescere nella forza? Punto due, chiudi l'aria. Chiudi l'aria. Che significa? Sapete, io ho acquistato questa moto identica, era solo 620 di cilindrata e non era così modificata come questa, perché io sono molto più santo di Saverio, quindi l'ho lasciata originale e ho mantenuto la cilindrata più bassa in rispetto a mia madre, che era lì già agitata all'idea che io salissi su una moto. E sapete, c'è una leva, da lì non la potete vedere, c'è una leva proprio qui vicino alla frizione, che è l'apertura dell'aria. Ora, dovete capire che quando io ho acquistato la moto, io non ero mai neanche salito su una moto di grossa cilindrata. Quindi quando io l'ho acquistata, letteralmente io non l'ho neanche provata, ho portato con me un ragazzo, Stefano, un fratello della nostra chiesa, ed è lui che si è fatto il giro in moto. E dallo sguardo e dalla faccia che aveva al ritorno di questo giro che mi sono convinto che dovessi comprarla quella moto. E acquistata la moto, cominciai a provarla e cominciai a fare i primi giri, a ingranare la prima, a lasciare piano la frizione e a cominciare a camminare. Il primo giorno, il secondo giorno, ero terrorizzato perché il solo rumore di questo motore mi terrorizzava e il sapere che c'era così tanta potenza sotto di me mi spaventava. Primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, la prima settimana, la seconda settimana, comincio ad avere un po' più sicurezza con la moto, comincio a cambiare marcia, ma succede qualcosa di strano. Quando io acceleravo, ogni qualvolta acceleravo, al posto di sperimentare maggiore potenza dal motore, il motore perdeva di potenza e non andava più veloce e non dimostrava di avere più potenza di un Vespino. E quindi mi sono reso conto che forse la mia moto avesse qualche problema. E quindi prima di fare domande, prima di fare brutte figure, ho preso il libretto di istruzioni. Ho letto le prime pagine e c'era questa indicazione che parlava dell'apertura dell'aria. Questa leva dell'apertura dell'aria si aziona solo quando accendi il motore da freddo. E una volta che il motore si è avviato, l'idea è che tu chiudi l'aria in modo tale che la benzina possa fluire dentro i cilindri, vedete come sono preparato, i cilindri della moto e il motore acquista potenza. Non appena lessi questa cosa sull'istruzione, sul libretto delle istruzioni, presi la moto, andai fuori, l'accesi con la leva aperta, che era rimasta aperta da settimane, e quindi una volta accesa e avviata la moto, chiusi la leva dell'aria. Quello che successe in quel momento ha dello straordinario. Angeli attorno a me mi tennero in equilibrio sopra questa belva, perché si chiama Monster, non a caso, è un mostro. E quindi, circondato da questi angeli, riuscii a mantenere il controllo di una moto che ora era diventato un bulldozer, una potenza che ad ogni singolo movimento dell'accelerazione rispondeva immediatamente. Era qualcosa, come posso descrivere, era un toro. Io mi trovavo sopra un toro che era sbizzarrito. Perché? Perché avevo chiuso l'aria. Nella nostra vita, il motore, la parte più importante della moto, è il cuore, è l'anima, quella che viene descritta anche come anima nel Vecchio Testamento, così tante volte nei Salmi, e vi incoraggio a cercare quei versi che parlano dell'anima e come Davide si rivolge alla propria anima. E il cuore nella Bibbia non fa quasi mai riferimento all'organo fisico, fa riferimento invece a quella parte dell'uomo interiore dove noi maturiamo pensieri, desideri, passioni, dove noi alimentiamo emozioni, dove noi alimentiamo e prendiamo decisioni. È la parte più intima, è la parte più importante. E a volte la nostra vita non è vigorosa e non ha piena potenza perché rimane aperta la leva dell'aria. E nel nostro cuore entra ogni tipo di distrazione. E quindi noi non siamo così vigorosi perché nel nostro cuore vengono quelle cose che leggiamo in quel libro che tanto ci emoziona. O incameriamo nel nostro cuore la bellezza di un film, un secondo film, una serie televisiva, la seconda serie televisiva, oppure Facebook, e stiamo lì le ore davanti a Facebook. Sono peccati questi? Assolutamente no. L'aria non è nociva per il motore, è necessario che entri aria, ma che entri nella giusta misura, e comunque l'elemento più importante per lo scoppio e la potenza del motore rimane la benzina. Dimmi di cosa hai alimentato il tuo cuore e ti dirò che potenza spirituale hai. Perché nella misura con cui noi alimentiamo questo motore di benzina, questo motore ha potenza, acquisisce velocità e schizza come un razzo. E Dio ci chiama a schizzare come razzi. Infatti il titolo del mio messaggio è "Vai a manetta", perché Dio ti chiama ad andare a manetta. Ma per schizzare come un razzo devi chiudere la leva dell'aria. E questo periodo, il periodo estivo, è un periodo che tutti noi abbiamo la leva dell'aria un po' troppo aperta. Siamo presi da tante distrazioni, le nostre priorità vengono messe in seria difficoltà, la routine la perdiamo. E il Signore invece ci invita ad alimentare il nostro cuore con il giusto cibo. Voglio rileggere con voi la tentazione di Gesù e come lui risponde al maligno. Allora Gesù fu condotto, Matteo 4:4, dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame e il tentatore, avvicinatosi, gli disse: se tu sei il figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Ma egli rispose, ascoltate ora, sta scritto. Gesù dice sta scritto. Gesù cita la Bibbia a memoria, il suo cuore era pieno della parola di Dio. Gesù cita Deuteronomio 8, che probabilmente tu non conoscevi neanche quale libro della Bibbia e non hai mai letto come capitolo. Gesù lo cita a memoria e dice sta scritto, diavolo, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Dimmi di cosa stai alimentando il tuo cuore e ti dirò quanta potenza spirituale tu hai. Gesù cita la parola con un verso che parla della parola per dimostrare che c'è potenza nella parola e che è tutto ciò di cui lui ha bisogno veramente, la parola. La parola di Dio è il cibo spirituale per il tuo spirito, per la tua anima. Chiudi la benzina in questa moto come è adesso e diventa solo ferraglia pesante che per spostare hai bisogno di 3 persone. Ma accendi questa moto, fai passare benzina nel motore e vedi come si trasforma in qualcosa che va lontano e ti porta in nuovi territori. Gesù ti chiama ad andare lontano, ad esplorare nuovi territori, ad affrontare terreni difficili, ma per farlo la benzina deve fluire nel motore del tuo cuore. La benzina ha un nome, la parola di Dio è il cibo di cui veramente hai bisogno. Scegli di leggere la Bibbia. Bastano 20 minuti al giorno per un anno intero per leggere l'intera Bibbia in un anno. Leggi la Bibbia ogni giorno. Memorizza la Bibbia, la parola di Dio. Mettiti sotto la benedizione dell'insegnamento della parola. Io ho qui degli attrezzi e degli oggetti che sono molto visivo oggi nella predica, che ti saranno molto utili non solo per quest'estate, ma per la tua vita. Una Bibbia cartacea. Perché cartacea? Perché il tuo cellulare al rischio di essere una leva dell'aria aperta. E proprio quando cominci a leggere la Bibbia dal tuo cellulare, può arrivare quell'email, può arrivare quel messaggio, può arrivare quella notifica ed è tutto perso. Una Bibbia. Questo è ciò di cui hai bisogno ed è stata creata, è stata forgiata, è stata scritta dall'autore per essere un'arma. La parola dice che La parola di Dio, la Bibbia, è una spada a doppio taglio. Questa è la sua funzione. Vuoi essere forte, vuoi essere vigoroso, vuoi essere virile, vuoi vincere contro il tentatore? Hai bisogno di questa. Non c'è altro. A volte facciamo counseling, facciamo riunioni su riunioni, appuntamenti, parliamo e riparliamo, affrontiamo i problemi, affrontiamo i problemi con credenti, affrontiamo problemi con ministri, affrontiamo i problemi con lo psicologo di turno e non ci rendiamo conto che l'arma più potente a nostra disposizione è questa, ci dà vittoria certa se continuiamo ad alimentarci di essa. Mirko, la conosco già, l'ho letta e l'ho riletta, vengo da anni in chiesa. Non funziona così, fratello, sorella, questa è un'arma e questo è pane di vita e il tuo spirito ha bisogno di essere cibato esattamente come il tuo corpo ha bisogno di essere cibato. Non venirmi a dire che perché hai mangiato per 40 anni, per 50 anni, ora puoi rimanere a digiuno fino alla tua morte. perché incontrerai la tua morte molto prima se lo fai. Ed è così anche spiritualmente. Se smetti di leggere la parola, studiare la parola, memorizzare la parola, far tua la parola, muori spiritualmente, chiudi letteralmente il motore, spegni letteralmente il motore con la chiave. Vuoi avere forza? Dai benzina, la parola, giornalmente. Vuoi usare il cellulare? Sì, anch'io ce l'ho e c'è un'ottima applicazione, si chiama YouVersion e ogni giorno mi manda un versetto ed è il versetto del giorno che non manco mai di leggere. E poi ci sono calendari, e poi ci sono le prediche online, e ci sono gli insegnamenti. Cibati della parola. E io ti dirò, nella misura con la quale tu ti cibi della parola, tu sarai potente, vigoroso, forte, veloce. Ho un calendario qui con me. Perché un calendario? Questo ti può essere utile per quest'estate, ma in generale nella tua vita. L'ho rubato dall'ufficio di Luciana, non so se sarà contenta, c'ho qualcosa di scritto qua. No, non vedo niente. Un calendario. Perché davanti a un calendario tu prendi scelte e determini quali sono le tue priorità. Davanti a un calendario tu decidi quando andare in vacanza, in quale periodo. E davanti a un calendario decidi quali sono i giorni intoccabili della tua settimana per impegni che hai preso davanti a Dio. La domenica per me è un giorno rosso, libero, meraviglioso e, come dice la parola, dedicata a Lui. Posso andare al mare? Posso andare al mare. Certo, Dio vuole che io vada al mare. È bellissimo andare al mare. Quanti sono già stati al mare? Anch'io, io già mi sono spellato. Forse un altro oggetto che avrei dovuto portare è la crema da sole. Il mare è bellissimo, ma perché assentarsi dagli incontri? Perché non essere così bravi nel pianificare da riuscire ad andare al mare pur venendo in chiesa per quell'ora e mezza? Possibile che un'ora e mezza la domenica abbia da derubarti della gioia di sperimentare la presenza di Dio ed essere sotto il suo insegnamento? Posso vedere le mani di quanti in questo momento dicono io mi sento edificato da questo messaggio, da questa predica e questo tempo di stamattina? Posso vedere la tua mano? Se non è vero puoi pure lasciarla laggiù, non è che mi offendo. Se tu fossi al mare in questo momento, ci sarebbe aria che entra nel tuo cuore e non benzina. Invece sei qui e sta entrando benzina. Amen, fratelli? Sta entrando benzina e la benzina ci dà potenza. Un altro oggetto che ho portato sono le chiavi del mio ufficio. E questo non per dirvi che avete bisogno del mio ufficio. Sono le chiavi del mio ufficio e quando io ho bisogno di un tempo speciale, anche se adesso vivendo da solo ho anche la possibilità di stare a casa con il Signore, però ho preso le chiavi dell'ufficio perché, sapete, Gesù indica in maniera chiara come noi dobbiamo pregare. E Lui indica chiaramente che dobbiamo chiuderci nella nostra stanzetta. Sapete cosa sta dicendo Gesù? Che nel chiuderci in un posto intimo dove non abbiamo distrazioni, viviamo la vera preghiera. Ogni altro è un surrogato. Dici, sì, prego mentre guido e vado al lavoro. Ottimo. No, ma io prego quando vado al bagno. Ottimo, puoi farlo dovunque, in qualsiasi momento, anzi, non cessate mai di pregare, dice la parola. Ma questo è fondamentale ogni giorno. Un tempo di qualità intimo, dove stai solo tu e Dio, e questa è benzina pura. Perché nel momento in cui ti chiudi nella stanzetta e stai alla presenza di Dio e cerchi Lui e incominci ad adorarlo e leggi e preghi e ti sfoghi e piangi e ti inginocchi, lì tu esci con un vigore nuovo. Vuoi essere forte? Prega, prega, leggi, medita e usa il calendario. Io voglio concludere questo messaggio nel ricordarti che Dio vuole che tu vada a manetta, che la tua anima sia stabile, che la tua vita sia incrollabile. Dio vuole che tu sei vigile, stabile nella fede, che ti comporti in modo virile e che sei fortificato, che cresci in forza. Dio vuole questo per te. Fratelli, sorelle, io credo che noi siamo una chiesa che è chiamata a tutto questo. E noi vogliamo essere una chiesa che va a manetta. Amen? Noi vogliamo conquistare ogni territorio che Dio ha prestabilito per noi e in unità vogliamo cercare la sua presenza nella nostra vita e rinvigorire sempre di più il nostro cuore attraverso la sua parola. Amen? Vogliamo alzarci in piedi e pregare. Chiudi i tuoi occhi. Se ti senti di alzare le tue mani in arresa, fallo in questo momento. E io voglio pregare per ciascuno di noi. Sono certo che sei consapevole che Dio non è qui per giudicarti, per mettere un peso su di te che è maggiore di quello che tu puoi portare, ma piuttosto lo Spirito Santo è qui per rinvigorirti e darti forza, per farti uscire da questo luogo più forte di come sei entrato, per affrontare qualsiasi stagione nella quale ti trovi e della quale il tentatore si sta approfittando per atterrarti, ammazzarti, per distruggerti, per derubarti. Pare alla tua presenza, noi come chiesa, chiesa tua, veniamo in preghiera e noi chiediamo nel nome di Cristo Gesù, a te Padre, di mandarci lo Spirito Santo e di dare forza alle nostre vite spirituali e darci un'estate che non sia simile a nessuna delle estati passate. Padre, noi vogliamo vivere il pieno vigore di seguire te. Noi vogliamo vivere il pieno vigore di essere alimentati dalla tua parola. Noi vogliamo, Padre, essere forti come tu sei stato forte, Gesù. Noi vogliamo affrontare il tentatore con quell'autorità che ti ha contraddistinto, non solo nella prima tentazione, ma in tutte le tentazioni con le quali lui si è rivolto. E io voglio pregare per la tua chiesa, per i miei fratelli, per le mie sorelle qui davanti a me. Vuoi tu, Padre, renderci vigili? Se c'è qualcuno che sta sonnecchiando, se c'è qualcuno che è distratto, se c'è qualcuno che è assopito da quello che è una stagione che toglie vigore, io prego che tu possa svegliare, rinvigorire e rendere vigile ciascuno di noi nel nome di Cristo Gesù. Padre, vuoi tu rafforzare la fede per chi sta avendo dubbi, incertezze, per chi si sente sbattuto come un'onda sbattuta dal vento. Io prego, Padre, per stabilità in questo momento, nel nome di Cristo Gesù, prego per una fede incrollabile davanti a ciascuna delle circostanze difficili rappresentate in questa stanza. Padre, noi vogliamo comportarci da uomini, virilmente. Non vogliamo essere degli smidollati, senza forza, senza scheletro. Noi vogliamo essere forti in te. E io prego per il tuo Spirito Santo che tocchi ora ciascuno di noi, che ci dia una nuova forza e una nuova carica anche di fare proprio le cose che tu ci chiami a fare, ad essere degli uomini, ad essere disciplinati, a lottare contro ogni desiderio carnale, ogni tentativo della nostra carne di derubarci della gioia vera, della passione vera che c'è nella tua parola e nel fare le cose che tu hai in mente per noi. Fortificaci, Padre. Io lo prego per ciascuno di noi nel nome di Cristo Gesù. Prego che anche questo tempo che andiamo a vivere, cibandoci del pane e del vino, quali simboli della tua carne sacrificata, del tuo sangue sparso per noi, Padre, io prego che questo possa essere un tempo nel quale tu ministri a ciascuno di noi, dove tu guarisci le ferite dell'anima, dove tu metti un nuovo spirito dentro di noi. Io prego affinché possa essere un tempo di purificazione, di santificazione alla tua presenza, perché tu sei morto per i nostri peccati, per darci salvezza e santità. E io prego che questo possa essere un tempo nel quale ci mettiamo a posto davanti a te. Nel nome tuo, Gesù, prego questo. Amen. Amen. Vogliamo celebrare ora la cena del Signore. E come anche in preghiera ho espresso, fai che questo sia un momento nel quale tu permetti allo Spirito Santo di ministrare nel tuo cuore. Fa che questo sia un tempo di decisioni, fa che questo sia un tempo nel quale tu metti davanti a Dio stesso le tue debolezze, fa che questo sia un tempo nel quale tu prendi degli appuntamenti stabiliti su quel calendario e li sancisci davanti a Lui, davanti alla Sua presenza, per essere un credente che rimane forte in ogni stagione. Amen? Possiamo venire avanti e celebrare la cena.